Claudio non è un evangelizzatore. È solo una persona molto per bene che vorrebbe vivere in un mondo migliore. E ogni sera prega perché ciò accada. E ogni mattina si rimbocca le maniche perché lo diventi. Come fosse capitato lassù, era per me un mistero. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:06 minuti, quasi 7 minuti. È il primo di febbraio. Questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. Sono tanti quelli che lo dicono. Quelli che parlano di fare scelte radicali, che sostengono di volere dedicare la loro vita a qualcosa di particolare, che gliela riempia e che non riempia solo una loro giornata. Parlando con le persone intorno a me è tutto un insieme di «ah, prima o poi lo farò, è un mio grande desiderio, ma non ce la faccio più con questa vita, adesso basta». Poi però quelle scelte lì le fanno in pochi, perché sono radicali, appunto, e quindi hanno a che fare con le radici e con lo sradicamento. Perché per partire per una missione, oppure per prendere dei voti, per mettersi una veste e non togliersela più, significa sfilarsi dalla terra in cui si è cresciuti e andare altrove. Cose tipo mettersi a guardia di un avamposto sperduto, di un faro in mezzo al mare, salire in montagna e non tornare più giù. È sempre molto più complicato di quanto non sia dirlo. E nessuno di noi lo sa, nessuno di noi sa dire che cosa significhi avere una giornata che non sia scandita dai ritmi della città, dalle persone che ci sono intorno. Nessuno di noi conosce il silenzio del mondo che non fa rumore se non l'abbiamo veramente provato, in un posto lontano da casa nostra, lontano dalle persone che ti stanno vicino da sempre. Ecco, quella che tutti chiamano una scelta di vita è forse una scelta di giornata. È facile immaginare una vita diversa. È molto più difficile vivere una giornata diversa. La prima cosa è necessaria per la seconda, ma senza vivere una giornata diversa non si riuscirà mai ad avere una vita diversa. Poi forse, non lo so, quel desiderio lì arriva e uno lo mette in atto. O forse quel desiderio di cambiare se lo tiene e lo ripete per anni, a se stesso e agli altri, come un ritornello che non fa rima. Se però, oggi, all'ascolto, c'è qualcuno che ha fatto delle scelte di vita radicali, qualcuno che ha vissuto in una capanna, magari ci vive, magari c'ha la radio accesa, qualcuno che è stato al fronte e che c'è tornato, qualcuno che si è messo una tonaca e dice messa, oppure che si è rifugiato in faro e c'è rimasto, io sono qui. E il numero, anche per voi, che siete in un posto veramente sperduto e avete scelto di esserci, è sempre quello, è 80024 0024 349 238 6666. Perché? Perché continuo a raccontarvi come è andato il mio fine settimana e le persone che ho, che ho rincontrato, ma che in realtà ho incontrato, visto che sono persone nuove, anche se ho la sensazione che le persone non cambino, le cose cambino, ma le persone no, e quindi c'era probabilmente qualcosa di quelle persone che ho incontrato in questo fine settimana già 15 anni fa, quando erano dei ragazzi. E uno di questi è esattamente una di quelle persone lì, è una di quelle persone che ha scelto di fare una cosa che sono che fanno in pochi, che è appunto mettersi una veste nera, un collettino bianco e partire per una missione prima e poi rifugiarsi, se questo termine può avere senso, in un piccolo alpeggio in montagna, in Valsesia. Lui si chiama Claudio, si chiama Don Claudio, e se per caso stesse ascoltando lo saluto, anche se probabilmente adesso starà dicendo messa o i vespri o quelle cose che di solito si fanno quando si ha una veste nera addosso. 80024 0024. Tempo fa ci aveva chiamato un signore che di mestiere fa il guardiano del faro. Ci aveva chiamato in diretta, era il faro di Livorno, vero Tiziano? Era il guardiano del faro di Livorno. Ci aveva chiamato in diretta, non mi ricordo più, per dirci che cosa. Era passato un po' di tempo e lui ci aveva dovuto salutare, non era potuto intervenire perché era arrivato un cargo e doveva tornare al lavoro. Se lui ci stesse ascoltando, e se come lui qualcuno che sta in cima a queste torri bianche che emanano luce e che danno una direzione per le persone che si trovano in mezzo al mare, e avesse voglia di raccontarci com'è la vita di una persona che fa quella vita lì, il numero è sempre quello. Per chiamare 80024 0024, per mandare un sms 349 238 6666. Voglio leggervi alcuni messaggi che sono arrivati oggi, chiaramente di persone che non fanno quella vita lì, perché altrimenti non manderebbero messaggi su Facebook, però ci sono passati vicino, hanno conosciuto qualcuno che quella vita lì la fa. Marco Marco, ad esempio, che mi dice che lungo il cammino di Santiago, vicino ad Astorga, c'è David. Vive in un casolare abbandonato. Niente elettricità né acqua corrente. Trascorre le giornate accogliendo i pellegrini che passano di lì. Ti offre un caffè, un succo o qualcosa da mangiare. Ma soprattutto ti tratta in un modo speciale, senza esigere niente in cambio. C'era stato anche, mi ricordo, la telefonata di un ragazzo che era fidanzato con una ragazza il cui padre faceva l'eremita. Detta così è detta male. Però, secondo me, lui ha capito di chi sto parlando e quindi, se voglia di richiamarmi e di raccontarmi un pochettino più da vicino qual è la vita di suo suocero o del padre della sua fidanzata, io sono qui prima di raccontarvi la mia di storia di persona che ha fatto una scelta particolare. E poi mi ha scritto Paola oggi, mi ha scritto un messaggio privato, quindi non lo potevano leggere tutti, forse perché appunto aveva voglia di mantenere l'anonimato. Le ho chiesto se poteva leggere questo messaggio e lei mi ha detto di sì. Paola fa un lavoro normale, fa l'ingegnere, ma il suo babbo aveva fatto una di quelle scelte di vita, forse non l'aveva fatta, semplicemente ci si era trovato e faceva, perché credo che a 80 anni non lo faccia più, il pastore. Paola mi scrive: ho vissuto molto vicina ad una persona il cui ritmo non era scandito dal ritmo del mondo, ma da quello delle stagioni, del caldo e del freddo, della presenza o assenza di luce naturale. Vivere con un padre pastore significava vederlo alzare la mattina alle 6 in inverno e alle 4 in estate. Quando la domenica io facevo colazione alle 9 del mattino, lui accanto a me mangiava pane e formaggio e beveva un bicchiere di vino. Non c'erano domeniche di festa, giorni particolari. Non esistevano vacanze estive. Noi bambine passavamo un mese a casa della nonna che abitava vicino al mare. Solo in caso di lutto o di malattia grave si faceva ricorso al pastore amico, che per il periodo breve e strettamente necessario faceva una specie di turno doppio. Quando si avvicinavano i periodi natalizi o pasquali, mio padre rimaneva a dormire nel casotto accanto alla stalla del gregge, senza corrente, con acqua portata da casa, perché non esistono allarmi o controlli satellitari. Non si andava mai a cena fuori, non si andava con i genitori al cinema. Queste erano cose del mondo parallelo, un mondo curioso e interessante, una specie di inavvicinabile universo delle meraviglie che però lo stupiva e lo stupisce ancora. Ed è forse la cosa che stupisce anche me, vederlo a 80 anni con lo sguardo meravigliato, come un bambino, quando gli racconto quello che faccio al lavoro, le dinamiche dei capi, del dirigente egoista, di quello buono, quello comprensivo, dei clienti che si arrabbiano, dei colleghi che se ne vanno via. La cosa che però mi stupisce ancora di più è che quando invito amici a pranzo, amici che hanno avuto l'occasione di conoscerlo, se non lo vedono al suo posto a tavola, mi guardano delusi e mi chiedono: ma come? Tuo padre non c'è. 800240024 349-238-6666. Torniamo a questo fine settimana in montagna, torniamo a Giorgio e a Claudio. La neve, quando cade a fiocchi grossi, rende tutto più pulito, tutto più sereno. Le città, che d'inverno sono buie e grigie, quando nevica diventano più care, placide, perfino se il traffico è paralizzato. Anzi, è proprio questo, è questo senso di paralisi che rasserena. Tutti nella medesima condizione, non tragica, solo infastidente, è molto democratica. E poi c'è il suono. Con la neve le onde sonore non vanno a sbattere dappertutto creando echi e confusione. No, con la neve ogni suono va a sgonfiarsi nel morbido. Non c'è casino. È come essere in una cella di isolamento, foderata di materassi. Tutti lì dentro. Tutti chiusi in una cella a pensare a come mai in quella condizione così estrema e indesiderata si finisca per trovare maggiore serenità che nella routine quotidiana. Tutti a pensare a come sia possibile che in un ingorgo sotto la neve la gente non impazzisca. Sarà il silenzio. Sarà il colore bianco, uniforme. La neve rende tutto più uguale. La neve rende tutti più uguali. Sabato, salendo in macchina con Giorgio verso Frasso, l'alpeggio dove ci aspettava Claudio, anzi, Don Claudio, tutti e due eravamo abbastanza nervosi. È stata la neve che all'arrivo ha coperto tutto a darci un po' di pace, e non certo la vista di Claudio. Lui non è uno di quei frati placidi colmo di esperienza e di saggezza, è sempre stato e rimane una persona tormentata, desiderosa di rendersi utile, di conoscere. Ecco, in questo lui e Giorgio sono molto più simili di quanto non si dicano. Sabato ha nevicato tutto il giorno. Solo per un colpo di fortuna siamo arrivati sani e salvi in cima alla salita. Noi tre non siamo stati insieme da tanti di quegli anni che non ce lo ricordiamo nemmeno più. Eppure, per quel misterioso processo che porta il tempo a curvarsi su di sé quando vuoi che lo faccia, improvvisamente ci trattiamo come se ci fossimo lasciati ieri. Siamo sempre noi. E non è certo una barba, una pancia, un capello bianco a fare la differenza. Claudio ci ha accolto con un sorriso stanco, pieno di preoccupazioni. È come se lui portasse sulle spalle i dolori del mondo intero. Sì, Claudio prende la vita come una missione. A lui dispiace di non essere in Africa a dare una mano a chi ha bisogno. Claudio non è un evangelizzatore. è solo una persona molto per bene che vorrebbe vivere in un mondo migliore. E ogni sera prega perché ciò accada, e ogni mattina si rimbocca le maniche perché lo diventi. Come fosse capitato lassù, era per me un mistero. Da quello che ci ha raccontato davanti alla cena che ci siamo concessi, gli anni passati in Congo in mezzo alle situazioni più tragiche che un uomo possa incontrare sono stati i più felici della sua vita. E da come lo racconta, non faccio nessuna fatica a crederlo. Rimanere isolati dal mondo tra amici a causa di una nevicata è una magia. Claudio poi aveva da raccontare storie di ogni tipo sulle sue vicende africane e io ero curiosissimo. Abbiamo scoperto che dopo un certo numero di anni i missionari devono rientrare in Italia e che lui aveva rifiutato un incarico in una diocesi molto importante perché non credeva che sarebbe stato bravo a vivere dentro al sistema della Chiesa, così l'ha chiamato lui, ma pensava che fosse giusto stare sempre al confine, qualsiasi esso fosse, tra lui e il prossimo o tra lui e Dio. La preghiera e la vita di parrocchia erano ciò che doveva fare lui se non poteva stare in Congo. E così è finito quassù. Io non fumo, però sabato mentre ci facevamo un tè caldo col panettone avanzato del Natale, avrei molto voluto uscire per farmi una sigaretta, per vedere com'era fuori. Poi mi sono fatto coraggio e ho semplicemente detto che volevo stare un po' da solo, nella neve, a godermi l'ultima luce della giornata. Nessuno ha detto nulla, io me ne sono uscito nel bianco e nel muto di quel luogo. Alla fine della strada, come dicono gli americani. Rientrato infreddolito mi sono messo su un divano e ho visto che c'eravamo tutti placati, dopo i sudori del primo incontro. Ognuno se ne stava per conto suo, senza sapere bene cosa sarebbe successo di lì a poco. È una specie di decompressione. Claudio pregava e Giorgio leggeva. Io li guardavo e mi chiedevo dove fossero finite tutte le energie che avevamo da piccoli. Forse erano solo trattenute dentro l'anima. Poi a un certo punto Claudio ci ha detto che era l'ora della messa. Io e Giorgio non ci andavamo da 20 anni a messa. E nemmeno mi ricordavo che ci fosse una messa il sabato. Invece sì, alle 6 il sabato si va in chiesa. Ci sembrava poco carino rifiutare, per cui ci siamo ritrovati seduti di fianco a una decina di anziani, che secondo me avrei rivisto anche la mattina dopo agli stessi posti. Loro cantavano inni di cui non conoscevamo né le parole né la melodia. Finita la cosa, che era durata anche troppo, mi sono accorto che non avevamo mai parlato del perché fossimo lì. E soprattutto che la giornata stava per finire, e non avremmo mai tirato fuori la macchina dalla neve se non avessimo cominciato a lavorare subito. E allora ci siamo messi a lavorare, io e Giorgio, a spalare neve e a cercare di montare catene, pensando che alla fine era tutto lì. E adesso si andava a casa. E facevamo tutto con le mani nude, che ci facevano anche male, e i vecchi intorno, a guardare. Claudio ci portava da mangiare e ci incoraggiava raccontandoci di come soffrivano la sete e la fame i bambini dell'Africa, sembravano presi in giro. Noi abbiamo iniziato un tale calvarione di stenti, fatiche, dolori articolari e imprecazioni nei confronti della neve e di chi l'aveva mandata, che quando Giorgio è venuto di chiedere a Claudio perché ci avesse chiesto di andare da lui fin lassù, a Frasso, gli è uscita una roba un po' brusca, una roba tipo: Claudio, ma che cosa diavolo ci dovevi dire? Claudio, anzi Don Claudio, ha unito le mani, che in quel momento mi è parsa veramente una presa in giro, e sotto la luce gialla del lampione ci ha detto: vi voglio portare da Agostino. Ecco, io lo sapevo, io dentro di me già lo sapevo che finivamo lì. Giorgio, Gaia, Claudio, io e Agostino Gavorrano. Eravamo noi 5 allora e dovevamo essere noi 5 anche adesso. Ci siamo guardati un po' e alla fine l'ho detto io: va bene, ormai siamo qui e allora andiamo da Agostino. E Bob Dylan qui a Radio 24. Vi ricordo che trovate tutti i brani del giorno sempre alla pagina di Io Sono Qui, radio24.it/io sono qui. Comunque in un modo o un altro la trovate. Vi ricordate che tempo fa, non so se ne avevo parlato anche durante la trasmissione dello scorso anno, c'era stato un tizio che a proposito di lavori e di scelte di vita radicali aveva partecipato a una selezione in cui c'erano 34.000 concorrenti in Australia e aveva vinto e quindi era diventato, diciamo, il protagonista di questo che era stato definito il lavoro più bello del mondo. Hi, I'm Ben, or otherwise known as the adventurous, crazy, energetic one, and there's only 55 seconds left to tell you why. Ecco. I love discovering new places. Okay, last year, questo drove all around Africa. È lui che si presenta in un video di presentazione. Questa cosa succedeva circa un anno fa. E Viola Bottoni mi ha trovato questa notizia per cui pare che quello che doveva essere il lavoro più bello del mondo è una scelta di vita lontano dalle persone, dalle cose, in una splendida isola dell'Australia, si è trasformato in un calvario perché lui lavora più che a contatto con la natura, a contatto con conferenze stampa, eventi promozionali, foto pubblicitarie, questioni amministrative, e quindi pare che dopo 6 mesi se ne voglia andare. Ci sono invece dei messaggi che mi parlano di scelte di vita. Quella vita lì io la facevo, mi scrive una persona che non si firma. Avevo la tonaca ma ho lasciato dopo 8 anni, adesso faccio il giardiniere e sono sempre in montagna. A proposito però di persone che vivono in montagna, hanno la tonaca, persone che conosco, perché nella fattispecie ho avuto la fortuna di averlo anche come sacerdote che ha celebrato il matrimonio di mia sorella, io ho chiesto a Giampaolo, o direi più ufficialmente Don Giampaolo, di raccontarmi com'è la vita di un giovane prete di montagna. Pronto Giampaolo? Pronto, eccomi. Ciao, buongiorno. Ciao, grazie, Matteo, grazie, ciao, per la telefonata. Senti, per la trasmissione vorrei salutare e augurare buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori. Grande, di 24, grande Giampaolo. E sei già partito come se fossi sull'altare. Senti Giampaolo, raccontami velocemente, tu hai l'età di mia sorella, quindi hai 38 esatto, anni. Esatto, siamo andati a scuola insieme. 38 anni quest'anno, quindi ne hai ancora 37. Non ho ancora 38, ne ho 37, esatto. Senti, tu hai cominciato, l'iter che tu hai seguito per diventare sacerdote è stato quello proprio regolarissimo? Quello più classico, cioè? Proprio, assolutamente più classico. Sono entrato in seminario in prima media, quindi molto piccolo, e poi ho fatto le medie, il liceo classico, sempre in seminario, e poi gli anni della teologia, che sono 6 anni, mm-hmm. E quindi sono diventato sacerdote che avevo 25 anni, proprio l'iter classicissimo che oggigiorno invece non è più così, insomma. Perché? In seminario un po' più tardi, ecco, perché la vita purtroppo porta a fare questo tipo di scelte, ma in generale sempre un po' più in là, quindi entrano persone che hanno avuto esperienze lavorative, esperienze già di studio diverse. Quindi è una scelta, è una scelta a cui si arriva, diciamo, maturandola, immagino, mentre invece tu che avevi, scusami, le medie, quindi avevi 13 anni, no, 11 anni. Anni, prima media, 11 anni. Senti, 84. Questa cosa, chiaramente la domanda più stupida che mi viene da sì. fare a una persona che ha fatto la tua scelta è che di fatto non è quasi nemmeno una scelta, cioè è semplicemente una strada che tu decidi di prendere a 11 anni. Ma diciamo che sono più scelte, voglio dire, quando si entra in seminario che si ha 11 anni ovviamente si fa una scelta motivata da quella maturità, certamente, sì. Quindi non sei ancora piccoli. Io ho avuto la fortuna di non essere assolutamente stato spinto dai miei genitori o da qualcun altro, ecco, era così questa voglia di un giorno diventare prete e fare come alcuni preti che io vedevo, ecco, che mi affascinavano molto. Senti Giampaolo, ovviamente man mano che poi si cresce uno si confronta in maniera sempre più matura, sempre più seria, ecco, quindi, tu sei prete, non parroco, giusto? Tu... No, non sono parroco, sono vice parroco, diciamo, sono in un oratorio, ho il privilegio di vivere in una bellissima città che si chiama Varallo, che è Varallo Sesia, Varallo Sesia, nella Val Sesia, ai piedi del Sacromonte, è un posto splendido, invito tutti a venire. Sì. Breve spot. Grande, anche la soletta della Proloco. Senti Giampaolo, dimmi invece qual è la tua giornata tipo? A che ora ti alzi, cosa fai durante il giorno? Ma sì, la mia giornata tipo, che poi di per sé non si verifica mai come giornata tipo, perché poi ovviamente, però diciamo prevede la sveglia verso le 6 del mattino, di solito mi alzo abbastanza presto, per avere proprio il tempo per dedicare le prime ore, la parte più importante della mia giornata, a quello che secondo me è la cosa più importante, che è la preghiera, la riflessione, la celebrazione della messa, ecco, queste. Quindi celebri messa la mattina presto? Di solito celebro la messa verso le 8, ecco, però prima precede appunto quella preghiera fatta col mio parroco, anche la preghiera personale, la lettura dei padri della chiesa. A me piace molto approfondire sia la Bibbia sia i padri della Chiesa, quindi lo faccio molto volentieri. E poi durante la giornata più o meno cosa fai, grosso modo? Diciamo che la mattina, ecco, non ho delle attività ben strutturate, nel senso che mi devo occupare poi dell'organizzazione delle cose che poi farò durante la giornata, per cui... Perché poi nel pomeriggio sono all'interno di un oratorio anche grande, quindi... Ok, quindi gestisci le cose dell'oratorio. Esatto. Senti, Giampaolo, invece... Invece una cosa... Anche, quindi, è vero, tu suoni l'organo, giusto? Sì, il pianoforte. L'organo, il pianoforte, mi piace la musica tantissimo, quindi ovviamente questa è una componente fondamentale delle mie attività. Giampaolo, senti, invece, poi ti devo salutare purtroppo, sì, ne avrai fatta una anche tu, no? Cioè, è successo una volta che ne hai fatta, non voglio sapere cosa, però che ne hai fatta una che ho detto, ok, forse non la dovevo fare. Ma penso che nella vita di ciascuno, guai se non succedesse questo, sicuramente, cioè io mi rendo conto di essere molto fragile, e quindi è una lotta continua, Giampaolo. È una lotta continua, ma come per prima, tutti. È questa scelta che viene maturata, ma che poi non si finisce mai di maturare. Chiaro. Comunque... Giampaolo, ti ringrazio molto per la chiacchierata e ti lascio tornare all'oratorio di Varallo. Ringrazio te e vorrei salutare dai familiari, tutti i varallesi, in grande. Particolare i ragazzi, gli ammalati, che purtroppo sono sempre tanti, e anche tutti quei varallesi che sono fuori Varallo per lavoro, va per bene, studio, ma hanno Varallo nel loro cuore. Giampaolo, grazie mille, ringrazio Giampaolo. 800240024, la borsa, e poi io sono qui. Io sono qui. Nella foto di oggi siamo in un bosco, direi, o comunque in un prato. Grandi paesaggi nelle ultime foto mandate qui a Io Sono Qui. C'è un albero che fa da quinta sulla destra, è un albero bello massiccio, la corteccia sembra molto vissuta. È comunque inverno perché non c'è una foglia che sia una. C'è un bel sole però, deve essere mattina presto, la luce è chiara, il cielo azzurro e in fondo le montagne sono innevate. Sono Gabriella Munari e ho 53 anni. Mi trovo a San Maurizio Canavese, in provincia di Torino. La mattina, prima di iniziare la giornata, infilo gli stivali ed esco col mio cane in mezzo ai campi. Ci godiamo in silenzio. Io sono qui. Simone mi ha scritto un messaggio su Facebook, tra l'altro il profilo di Simone è molto interessante, andate a vederlo se vi capita, si chiama Simone Muffolini. Mi scrive: vivo sopra le montagne da quando sono nato, mi è stato insegnato di rispettarle amorevolmente, prendo dalla montagna solo lo stretto necessario per vivere felice, insegno alle persone che vengono da me che si può ascoltare la natura, il mio motto è vivi il presente ovunque tu sia, dimentica il passato e non parlare del futuro, ti ricordi che stai vivendo e come stai vivendo. Simone è un personaggio interessante. Simone, andate a vedere il profilo se vi capita, magari attraverso il profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia, Io Sono Qui. Alan mi scrive: 7 anni fa ho deciso di ritirarmi dal lavoro tra una decina d'anni. Allora, 7 anni fa ha deciso di ritirarti dal lavoro tra una decina d'anni, quindi tra 3 anni fondamentalmente, credo, prima dei 50, e dedicarmi a chi sarà più sfortunato di me. Ma ho paura non del sacrificio, di vedere una cosa, cosa vuol dire star male veramente. Sono solo, non so se riuscirò a fare a meno dell'adrenalina della vita a spesa di corsa come quella che vivo adesso, Alan. Credo che ci sia dell'adrenalina anche dall'altra parte. Chiaramente arrivano un sacco di messaggi di persone a cui piacerebbe fare queste scelte, ma non le fanno. Facciamo così, che quando avete deciso di farlo mi scrivete. Se invece mi scrivete, ah guarda, io vorrei tanto, magari aspettate di decidere. Però c'è qualcuno che invece qualche tempo fa ha provato a fare una scelta di questo tipo. Ha provato a fare l'eremita per un anno di vita. È Pietro da Pordenone. Pronto, Pietro? Pronto. Ciao, buongiorno. Buongiorno, salve. Grazie mille per aver telefonato, Pietro, per aver voglia di condividere questa storia, che già di per sé il fatto che uno provi a fare l'eremita ha qualcosa di particolare. Cosa vuol dire innanzitutto provare a fare l'eremita e dove? Dunque, provare a fare l'eremita, prima di tutto ti stufi di questa società, dopodiché tagli tutti i ponti che cerchi, che questa vogliono avere con te, e di solito si dice vado su in montagna, io sono qua vicino alle montagne. E ho pensato, però perché vado su in montagna? Si sta poco, non adopero più quello che usano loro, televisione, questo, quella, la radio però l'ho tenuta. Ma cosa facevi, Pietro, prima? Facevo l'informatore medico. Ah, quindi andavi in giro con la valigetta. Esattamente. Dai medici condotti, insomma. Sì. E hai fatto un anno di vita così, dove stavi esattamente? No, io sono sempre rimasto qua a casa tua. Mia, però ho cominciato a tagliarmi le legna, ho cominciato così, ho preso il riscaldamento, l'ho messo a 13 gradi. In casa? Scaldavo solo con le legna, quello di casa, sì, per non spaccare i tubi, no? Ma scusami, ma non lavoravi più, quindi? Sì, sì, anche andavo fuori a lavorare, stretto necessario. Ah, stretto ok, necessario. Diciamo, era un eremitaggio part-time? Sì, sì, questo era in preparazione del salto proprio. Ah, cioè, e poi cosa è accaduto? Il salto com'è andato? Un momento, poi allora però l'acqua calda non l'ho più adoperato, ho fatto tutto l'inverno con l'acqua fredda, però quando è ritornato di nuovo l'inverno, questo inverno qua, ho riaperto l'acqua calda e allora ho detto cioè, ma forse. Scusa Pietro, scusa, questa è la storia di un fallimento, di un eremitaggio, più che di un eremitaggio. Quanti anni hai? 58. 58, non hai moglie o figli? No, no. Altrimenti l'acqua fredda col cavolo che se ne facevano la doccia. Pietro, ti ringrazio moltissimo. In bocca al lupo per la prossima avventura. Grazie. Ciao, grazie. Grazie. Oggi mi è arrivato un messaggio di Josh che mi diceva: mia sorella ha finito medicina, aveva già il posto in specialità e ha deciso di diventare suora. È diventata chirurgo da suora e adesso vive in Togo, dove fa la suora chirurgo nell'ospedale San Giovanni di Dio ad Afagnan. Noi gli abbiamo chiesto se potevamo sentirla. Sua sorella era in Italia e quindi è al telefono con noi. Suor Simona. Pronto, Simona? Pronto. Ciao, grazie, buongiorno. Grazie, buongiorno. Simona, hai voglia di raccontarmi esattamente che cosa fai in Togo e come si chiama esattamente il posto in cui stai? Sì, io vivo in Togo da 2 anni e mezzo a Fagnan. Sì. Con altre 2 suore della mia congregazione, la nostra comunità. Lavoriamo in questo ospedale missionario, io sono chirurgo, le altre suore sono infermiere, quindi lavoriamo con i malati che vivono là. Ma tu da quanto sei suora esattamente? Io sono suora da 11 anni. Ok, e è solo gli ultimi 2 anni e mezzo che sei in Togo? Sì, è perché prima c'è stato il tempo di preparazione, prima per diventare suora e poi dopo ho fatto la specialità in chirurgia quando ero già diventata suora. Quindi scusa, tu hai scelto di diventare suora a che età? E dopo l'università avevo 26-27 anni. Scusami, non ho sentito, a quanti anni? 26-27 anni. Dopo l'università, sì, alla fine della quindi la domanda te l'avevano già fatta in molti. Tu avevi una vita già, diciamo, con una sua struttura prima di decidere di fare questa strada? Sì. Cioè, nel senso, normale, come i giovani universitari. E com'è accaduto che un giorno hai deciso di farlo? È una cosa che hai maturato nel tempo? Cioè, com'è che è arrivata? È una cosa che si matura nel tempo, nella preghiera, nel rapporto col Signore. Ho capito che questa è la mia strada, quindi è quella che ho scelto. E poi per diventare suora, una donna cosa deve fare esattamente? E c'è un tempo di formazione, ci sono degli anni di formazione, c'è un cammino prestabilito. Ma scusa, più o meno la formazione, cosa intendi per formazione? Cioè sono degli studi o semplicemente? Sì, si entra in una congregazione, si vive la vita in comunità, quindi si impara nella vita e poi ci sono degli studi, sì, per conoscere la congregazione e conoscere anche che cos'è la vita religiosa. Senti, invece in Togo che tipo di operazione fai da chirurgo? Operi qualsiasi cosa? Un po' di tutto, là si deve imparare a fare un po' di tutto perché non ci sono gli specialisti, quindi ho imparato sul posto a fare anche quello che in Italia non avevo ancora. Cioè, la cosa più diciamo rischiosa e difficile che hai fatto qual è stata? Non saprei dire, ci sono tantissime cose, nel senso che praticamente si fa tutta la chirurgia, tanto in urgenza. Quindi un po' di tutto. Senti, ci ripeti come si chiama il posto in cui stai e magari così se qualcuno ha bisogno, cioè se avete bisogno e qualcuno vuole andare a vedere se c'è un sito? Sì, c'è un sito. L'ospedale si chiama Ospedale San Giovanni di Dio a Fagnan. È gestito dai frati Bene Fratelli. Ah, ok. E c'è un sito comunque, si può entrare. Si può trovare. Ok, Simona, ti ringrazio moltissimo e in bocca al lupo per tutto. Grazie mille. Ciao, grazie. Buona giornata. Grazie. Io ringrazio anche gli altri che erano al telefono e che non ho potuto sentire, però quando mi capita per le mani una suora o un prete mi si viene sempre tanta curiosità di fargli domande. Ci sono un pochettino di messaggi, però ad esempio Gianluca che scriveva, che ha telefonato, dice che ha uno zio che per 25 anni ha abitato in Maremma senza acqua, cacciando e dedicandosi solo all'agricoltura. E poi Alessandra da Bari mi diceva: il mio radicale cambiamento di vita è avvenuto 4 anni fa, quando ho lasciato la famiglia per andare a vivere per la strada. Wow. C'è invece un'altra storia che io ho voglia di raccontarvi e che continuo a farla, la storia di Luca. Luca è quel padre di famiglia che nella prima mail mi diceva che viveva i giorni che mancavano all'incontro col proprio figlio, visto che lui è separato, contando gli spiccioli che aveva in tasca. Questo è il terzo capitolo della storia di Luca ed è un fine settimana con il figlio. Caro Matteo, ho passato finalmente il mio fine settimana con mio figlio. Domenica mattina, partita. Ci si sveglia presto. L'inverno non è mai semplice, fa freddo anche in casa. Le partite del girone A, categoria giovanissimi, provincia di Cremona, si giocano ad orari da incubo, per tutti. La sveglia suona prima per me. Doccia, si accende il riscaldamento e faccio colazione. Lascio dormire ancora un po' Gio, mio figlio. E poi lo sveglio. Sento dal profondo delle coperte un arrivo quasi doloroso. Si esce e si parte. In giro non c'è un'anima viva. Per strada una alla volta scorgi le macchine dei papà che portano i compagni di giù al campo. Ci si conta. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Ne manca uno. Ci troviamo a giocare in 10. Chi manca, chi non è venuto, non importa. La partita va giocata e si gioca. 10 contro 11. Gio mi guarda con un sorriso. Sa di non essere un campione. Forse sa già che il calcio non è uno sport per lui. Però gli piace stare con i suoi amici, per cameratismo. È qui, come tutte le domeniche. L'allenatore si avvicina e raccomanda qualcosa a tutti. A Gio dice: corri, corri, corri, rompe le scatole a tutte oggi. Sei da solo in attacco, devi solo correre. Si comincia. Tutti corrono, tutti sbagliano, tutti sudano e si scoraggiano. Al decimo gol preso è la fine. Tutti mollano. L'arbitro fischia la fine, meno male, si torna negli spogliatoi, una doccia e a casa. Ci rifaremo la prossima volta. Ciao, sono Luca e sono qui. Grazie a Luca che continua a scrivere la sua storia a puntate, un po' come faccio io, grazie a Viola Bottoni, grazie a Fabio, Rudy Cantadori, a Stefano D'Andrea e a Tiziano Bonini. Mi arriva un messaggio di Oscar che dice: da qualche anno ho cambiato vita lavorativa, faccio il pittore tutto il giorno nel mio studio di 9 metri quadri. Domani continua la storia di Giorgio, di Gaia, di Claudio e soprattutto di Agostino. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi?